Per me, la corazzata Potëmkin è una cagata pazzesca! Te la raccontiamo noi la rivoluzione. 1917-2017, speciale a puntate sulla rivoluzione russa. A cura di Michele Terra e Agostino Giordano. Ciao a tutti, benvenuti a Te la raccontiamo noi la rivoluzione con Agostino Giordano e il sottoscritto Michele Terra. Ancora? Ancora con la rivoluzione? Ma sì, dai, sono passati 100 anni, però mi sembra ancora una cosa attuale. Poi La corazzata Potëmkin era un film bellissimo, non è vero che era palloso. Dai, davvero? Ma tu lo sai quanto dura il film di Eisenstein? 5-6 ore. No, dura un'oretta, però è un film muto, è un film muto dove il pubblico si deve immedesimare nei personaggi e immaginare le parole della rivoluzione. Scopriamo che paradossalmente la corazzata Potëmkin era innanzitutto non Potëmkin, ma Potëmkin è un film che dura un'oretta, poco più di un'oretta, 70-75 minuti. E di cosa parla? Cioè, cosa parla la corazzata Potëmkin? E parla di una rivoluzione, però non è la rivoluzione bolscevica del 17. Cioè, la corazzata Potëmkin è la rivoluzione d'ottobre 1917. Insomma, oh, c'è un po' di confusione qua, eh. Non è proprio così, è del 1905, 12 anni prima. Giusto. E anche lì c'era una guerra di mezzo, perché come tutti sanno la rivoluzione bolscevica avviene... Comincia nel 1917. No, la storia del bolscevismo comincia nel 1903, a dire il vero. Quando al secondo congresso del Partito Operaio Socialdemocratico Russo, Lenin si separa dalla parte più moderata del partito e fonda i bolscevichi, che significa la parte maggioritaria, e dall'altra parte ci stanno i minoritari, i menscevichi. Quindi menscevico si dice a uno che tendenzialmente ti sta moderato, sta sui coglioni. Esatto. Quindi allora, quando mi vorrai offendere, mi dirai sei un menscevico e io cercherò di non farmi chiamare, di non farmi offendere in questo modo. Bene, quindi menscevichi, bolscevichi già dagli inizi nel 1903. Perfetto. E poi avviene che, siccome erano un po' abituati a fare le guerre allora, e lo zar era un po' imperialista, gli viene bene in mente di fare la guerra col Giappone, perché gli servivano alcuni sbocchi dall'altra parte, dal lato asiatico dell'impero, e quindi nel 1904 si scatena la guerra russo-giapponese e il popolo non è molto contento, e quindi c'è appunto, come popolo, cioè, oggi a sentir tanti anticomunisti oggi si dice che praticamente la rivoluzione bolscevica è stata un disastro per il popolo russo. Non stava bene, stava benissimo prima della rivoluzione. No, non stava bene, anche perché appunto 12 anni prima ne aveva provato a fare un'altra di rivoluzione, e infatti La corazzata Potëmkin, il film, narra la rivolta dei marinai del Baltico, che sono un po' rotti le palle di far la fame, mangiare vermi e di combattere e morire per lo zar, e quindi si ribellano. Tra l'altro non c'è soltanto il film La corazzata Potëmkin, ma se uno vuole vedere qualcosa di divertente su quel periodo può andarsi a cercare un fumetto di Bonvi, L'uomo di Tushima, che uscì alla fine degli anni 70, dove gli omini di Bonvi, non so se vi ricordate le Sturmtruppen, ecco, lì invece sono i marinai del Baltico, ma con le stesse forme dei soldatini delle Sturmtruppen che si ribellano al potere zarista. Praticamente abbiamo una situazione rivoluzionaria piena nel 1905, tant'è che, se non sbaglio, maestro correggimi, Lenin disse che se la rivoluzione dell'ottobre 1917 non ci sarebbe mai stata senza la Comune di Parigi prima, senza la rivoluzione del 1905 e senza poi quella del febbraio del 17, insomma, che vedremo dopo. Quindi premesse importantissime che hanno appunto radici lontane. Non scoppiò nel 17 all'improvviso tutto, vero? No, anche perché poi c'era un'opposizione molto radicale e molto radicata allo zarismo in Russia al tempo. Mica c'erano soltanto i bolscevichi e i menscevichi, c'erano per esempio i populisti, c'erano i 5 Stelle di allora. Sì, erano populisti, ma non erano proprio 5 Stelle, anche perché paravano, erano un po' dedite al terrorismo. Partito rivoluzionario russo, come si chiama? Partito Socialista Rivoluzionario. Partito Socialista Rivoluzionario. Che aveva un gruppo di simpaticoni che si chiamava Organizzazione di Combattimento, che ogni tanto si dedicava al tiro al ministro e ne tirava giù qualcuno. Non a caso anche il fratello di Lenin faceva parte di questa organizzazione e venne condannato a morte e poi impiccato, che fu un episodio che segnò molto lo sviluppo personale, probabilmente anche politico, dello stesso Vladimir Lenin. E quindi un'opposizione rivoluzionaria che si radicava allora soprattutto nelle campagne, poi man mano si sviluppava nelle città la classe operaia, le idee socialiste marxiste cominciavano a prendere sempre più piede, fino appunto quando alla fine dell'Ottocento, nel 1898, nacque il primo partito marxista in Russia. Invece i soviet, i primi soviet, quando possiamo collocare, già pure nel 1905, i primi soviet nascono appunto nel 1905, ma anche qui si inseriscono su una tradizione russa, su delle forme consiliari delle campagne che vengono adattate dal movimento socialista alla nuova struttura politica e sociale dell'impero, quindi la nuova classe operaia che c'è nelle città. E appunto nel 1905 si sviluppano i primi soviet proprio a San Pietroburgo, e casualmente, tra virgolette casualmente, troviamo a un certo punto in quell'anno, nel 1905, a presiedere un personaggio che sarà un po' un pezzo di storia del movimento rivoluzionario comunista, che sarà Trotsky. Trotsky è il presidente del soviet di Pietroburgo. Giovanissimo, un giovanissimo Trotsky. Battagliero, un sepolcro al cimitero ricoperto di lilla. Battagliero, uno sguardo ardito e fiero che rincorre l'aldilà. Non lo salverà dal cielo il fucile mitragliero, né un manipolo guerriero lo potrà resuscitare. Corre in cielo, corre in cielo, oh battagliero. Battagliero, un concorso al ministero segna la maturità. Battagliero, rispettoso lusinghiero il giudizio che si dà. Non lo salverà dal cielo il suo lucido pensiero, disinvolto faccendiero del potere che verrà. Apprendista dell'impero, oh, oh battagliero. Battagliero, il serraglio di un impero con un limite d'età. Battagliero, un giaccone color nero marca la diversità. Non lo salverà dal cielo il suo lucido pensiero, il furore bandolero, il potere che non ha. Aspirante guerrigliero, oh, oh battagliero. Salverà dal cielo il fucile mitragliero, né un manipolo guerriero lo potrà resuscitare. Corre in cielo, oh battagliero. Corre in cielo, oh battagliero. Parliamo un po', raccontiamo un po' della vicenda della corazzata Potëmkin, perché appunto ultimamente, soprattutto dopo la morte di Paolo Villaggio, è venuta fuori un po', no, la retorica sul fatto che la corazzata Potëmkin fosse di una donna mortale, no? Invece il film è straordinario, bellissimo, e appunto racconta di una vicenda bellissima, di una vicenda straordinaria, in cui appunto i marinai si ammutinano perché appunto si rifiutano di mangiare del cibo avariato e soprattutto prendono la guida della corazzata Potëmkin e nel porto di Odessa puntano i cannoni della corazzata contro l'esercito zarista che sparava sulla folla, no? La scena poi bellissima, che pare che in realtà non sia avvenuta realmente sulla gradinata del porto di Odessa, ma sui vicoli della cittadina. E la corazzata, che dopo prende il largo e si aspetta l'attacco della flotta zarista, e invece i soldati della flotta zarista la lasciano passare con la bandiera rossa che sventola in mezzo al mare, ed è proprio appunto il film che tutti considerano invece una noia mortale, che purtroppo insomma anche rispetto al quando uscì il film invece di Fantozzi del 76, l'intenzione allora era totalmente diversa, cioè era quella di far passare, di prendere in giro anche i vertici aziendali, che all'epoca imponevano anche una visione diversa rispetto all'opposizione sociale. Tant'è vero che questo film fu vietato in molti paesi europei, proprio perché invece era foriero di rivolta, parlava appunto di fratellanza, di solidarietà, di classe. La parola fratelli, che c'è sia all'inizio che durante il film e alla fine del film, è la parola chiave, no? Quindi solidarietà di classe, parole che oggi sembrano impronunciabili e sembrano appunto fuori dalla quotidianità, invece all'epoca e per tutto il Novecento erano parole d'ordine fondamentali, no? E in un pezzo che è stato pubblicato sul sito, sul blog Giap, proprio all'indomani della morte di Paolo Villaggio, in cui appunto si riprendeva un po' quella che era stata una discussione anche attorno alla morte di Paolo Villaggio, in cui appunto veniva fuori questa retorica sulla corazzata Potionkin, che nei fatti era una cacata pazzesca, appunto un qualcosa di pesante, un qualcosa di assolutamente da evitare, no? Già a partire dal fatto che molti la considerassero di una durata esagerata, ma in realtà dura poco più di 70 minuti. E quindi abbiamo in linea Wuming 1, a cui chiedo appunto proprio una riflessione sulla potenza invece della corazzata Potionkin, mandata in visione in Piazza Maggiore, e c'erano tantissime persone che sono rimaste anche sorprese da questo film. È vero, sì, nel giugno scorso nel Festival del Cinema Ritrovato c'è stata questa proiezione in Piazza Maggiore della corazzata Potionkin davanti a 4.000 persone sbigottite, perché non ne avevano proprio idea, e io ero lì con mia figlia. C'è gente che si è messa a piangere di commozione, una standing ovation durata minuti e minuti alla fine, no? E proprio l'impressione che avevano molti era che cosa mi avevano raccontato di questo film, cosa avevo capito. Non avevo capito assolutamente nulla, non ne sapevo niente. Nei giorni prima una troupe, diciamo, della Cineteca, dei videomaker per conto della Cineteca, avevano intervistato un po' di gente in giro per il centro di Bologna, chiedendo cosa ne pensi della corazzata Potionkin, secondo te quanto è lunga la corazzata Potionkin. Molti rispondevano boh, 4 ore, cose così, perché l'unico riferimento che avevano era la parodia che c'è nel secondo tragico Fantozzi. Qualche giorno dopo è morto Villaggio, sono passati veramente pochissimi giorni dalla proiezione in piazza e dalla morte di Villaggio, e abbiamo constatato che sui social network un sacco di gente, l'unica roba che sapeva dire di Villaggio era la corazzata Potionkin è una cagata pazzesca, cioè praticamente lo ricordavano così: grazie Paolo per averci detto che la corazzata Potionkin è una cagata pazzesca. Cioè, questi non avevano mai visto il film, non avevano neanche capito il senso della parodia fatta da Villaggio, che è anche un omaggio e un remake, e niente, e quindi pavlovianamente lo celebravano in questo modo, no? Con la gioia, no? La gioia dell'ignorante che si crede anticonformista assumendo una posa anti-intellettualistica, che in questo paese invece è il massimo del conformismo e non da oggi. Quindi era duopo collegare le due cose e spiegare qual era il contesto in cui era nata la parodia fantozziana della corazzata Potionkin, e spiegare il senso di quella sequenza, perché essendosi perso quel contesto, che era il contesto degli anni 70, ed essendosi perso anche il contesto del film nella sua globalità, perché molti lo hanno visto tanti anni fa e poi dopo hanno solo rivisto le scene spezzettate su YouTube e isolate nelle singole gag, e della corazzata Potionkin magari hanno visto solo la scena del remake della corazzata Potionkin che fa Fantozzi, hanno visto solo quella scena in cui lui prorompe in quella battuta, in quella frase liberatoria, no? E quindi essendosi perso quel contesto, il senso sfugge completamente. Quello lì è un tributo, è un omaggio, e poi c'è un livello meta, cioè nel senso che la rivolta dei dipendenti della megaditta durante il Cineforum è la stessa rivolta che fanno i marinai della corazzata Potionkin, uguale, proprio attraverso le stesse fasi, è veramente un calco, è citato ogni elemento del film. Esatto. Solo che se uno non l'ha vista la corazzata Potionkin, questa cosa gli sfugge. Voi fate anche un ragionamento importante in cui riproponete la parola d'ordine, una delle parole d'ordine poi del film di Eisenstein, che è proprio fratelli, no? Che è la parola chiave, a cui appunto si collega la solidarietà di classe, che è appunto l'elemento forte e potente di quel film, e che forse era uno dei motivi che poi spinsero, diciamo, molti in molti paesi europei a vietarlo, ecco, a proprio a non farlo vedere. Tra l'altro mi pare che lo stesso Majakovskij in Russia si impose per farlo proiettare, perché anche l'Unione Sovietica agli inizi lo proiettavano solo nei circoli operai e non invece in tutti i cinematografi, cosa che poi avvenne proprio grazie a Majakovskij. Esattamente, è stato considerato per un sacco di tempo un film che poteva fomentare ribellioni, quindi è stato proibito. E ti dirò di più, che anche quelli che oggi lo disprezzano senza conoscerlo, in realtà che lo disprezzano anche dopo che gli hai spiegato il senso della scena di Fantozzi, che continuano imperterriti a trovare scuse, a arrampicarsi sui vetri, alla fine ce l'hanno col film politicamente, perché è un film comunista, perché è un film sovversivo, perché è un film rivoluzionario, perché è un film sulla lotta di classe, tutto quello che sta sulle balle al borghese italiano, all'ideologia borghese, che ha sempre assunto una posa anti-intellettualistica, no? E se tu metti assieme queste due cose, appunto l'antipatia politica per il film, l'antipatia politica, devo dire, anche in minore per noi, Puming, no? Nel senso che chiaro che è ovvio che abbiamo i nostri haters, e se ci metti che lo stesso villaggio poi, insomma, nel corso degli anni, diciamolo chiaramente, insomma, è diventato molto più reazionario, certo. di quando era giovane, spesso insomma ha preso posizioni, ha fatto esternazioni nichiliste, ma di quel nichilismo appunto reazionario borghese. Questo è un cocktail che non ha certo aiutato a tenere la barra dritta nella discussione che c'è stata, però in qualche modo ci si è riusciti. Adesso esce il DVD, anzi sta uscendo proprio in questi giorni il DVD della Corazzata Potemkin restaurata, fatto dalla Cineteca, e dentro c'è un libro con tutta una serie di contributi, un cofanetto con tutta una serie di contributi, tra cui anche un mio testo, che è praticamente un aggiornamento, rielaborazione e rifinitura del post di Giap e della discussione che c'è sotto. Ringraziamo Wuming Uno e grazie a voi. Buona rivoluzione anche a te, alla prossima. Anche voi. Ciao. nella Russia 1905 poi non c'erano soltanto i marinai del Baltico, gli operai e i contadini. Uno dei primi episodi rivoluzionari di quell'anno fu la cosiddetta Domenica di Sangue. Ah sì? Un corteo enorme a San Pietroburgo guidato da un prete, un pope ortodosso, pope Gappon, che guidò una massa di cittadini inferociti che avevano fame, sono stancati della guerra e che non portavano però le bandiere rosse, portavano le icone appunto della Chiesa ortodossa, nel tentativo di consegnare allo zar Nicola una petizione democratica, chiedendo una svolta democratica all'impero, e quindi diritti che per esempio in altre parti d'Europa erano riconosciuti fin dalla Rivoluzione francese. Però lo zar non gradì molto. Ah no, non gli stavano simpatici neanche i preti che... No, lo zar e la destra militare non gradì molto Pope Gappon e i cittadini che sfilavano, che per loro era un'offesa assolutamente da lavare nel sangue, e di sangue ne versarono molto, perché uccisero circa 2000 persone bombardando. Quindi repressione da un lato, dall'altra parte richiesta di giustizia, giustizia sociale, fame, pane, guerra, carestia. Sono passati davvero tutti questi anni o sono parole che ancora oggi purtroppo ci circondano? È una realtà che è chiaro, è diversa da quella lì, però cioè, i rapporti della società mi sembra che siano ancora quelli. No? Purtroppo siamo ancora a discutere di lotte di classe, e di lotte di classe che purtroppo viene sempre fatta e sempre vinta dall'alto verso il basso, dalle classi padronali che combattono la loro battaglia e la vincono contro i lavoratori e le lavoratrici che in Italia, ma non solo, sembrano soccombere. Anche perché purtroppo c'è stato un periodo un po' lungo chiamato stalinismo, che ha cancellato un po', abbastanza sputtanato. Trotskista, ecco, adesso fa il trotskista. Sì, che ha un po' sputtanato la stessa parola comunismo. Giusto. Io vorrei citare un compagno scomparso qualche tempo fa e che per un periodo è stato anche il direttore responsabile di Radio Città, Radio Città Fujiko, Stefano Tassinari, che in un'intervista radiofonica, Radio Onda d'Urto, nel novembre 2010 diceva che bisogna ridare dignità alla parola comunismo, una parola che contiene il massimo del divario tra il suo significato e la sua applicazione. E quindi forse ripensare il comunismo, rileggere oggi la storia della rivoluzione bolscevica, non è soltanto un'operazione di nostalgia come viene fatta spesso e come vediamo anche nelle edicole in questi giorni, che è tutto un fiorire di speciali giornalistici, ma è il tentativo di ridare la parola, da un punto di vista politico, nell'agone della lotta di classe, a quello che noi ancora definiamo un po' il proletariato, le classi lavoratrici. Assolutamente, tra l'altro a Bologna, citando Stefano Tassinari, credo che sia il modo migliore per restituire dignità alla parola comunismo e alla parola rivoluzione, ecco, anche perché lui era un intellettuale che praticava la militanza, viveva la sua militanza comunista a 360 gradi, ecco. E chi meglio di lui oggi può, diciamo, ridare in questo senso dignità alla parola comunismo e ricordare la rivoluzione sovietica, ecco, considerando il fatto che le contraddizioni ci sono ancora tutte, che il metterla sempre, diciamo, sul ridere, no? A proposito, riprendendo Fantozzi, no? Cioè i padroni oggi, la classe padronale oggi è chi ci governa, quando si parla di contraddizioni sociali tende un po', no, a ridicolizzare, no? La protesta, le contestazioni, le criticità, no? La butta sul ridere, sminuisce e appunto ti considera fuori dalla storia. Ecco, noi con questo vogliamo dire che sì, non pigliamoci troppo sul serio, però cerchiamo di considerare anche il fatto che le contraddizioni ci sono tutte, no? Sì, e tra l'altro gli intellettuali nella storia rivoluzionaria russa hanno avuto un ruolo mica piccolo, perché in gran parte erano rivoluzionari sia nelle premesse del bolscevismo, quindi nel 1905 e tutto l'inizio del secolo breve, ebbero un ruolo molto importante. Basta pensare non soltanto ad Eisenstein, che era regista, ma a un personaggio non da poco come Majakovskij e tanti altri, certo. Tolstoj, Gorky, certo, e così via. E però Tolstoj, tra l'altro, era uno che nel 1902, se non sbaglio, scrisse anche lui allo zar, diciamo, certo, renderlo partecipe delle condizioni di sofferenza del popolo, no? Mandò anche lui una petizione. E basta pensare che l'intelligenza russa era talmente rivoluzionaria che quando iniziò la controrivoluzione stalinista, alcuni giovani intellettuali e studenti di San Pietroburgo, allora Pietrogrado, cominciarono a manifestare e a lamentarsi e a organizzare dei veri e propri presidi davanti alle edicole, quando la stampa rivoluzionaria cominciò a non pubblicare più poesie. Ma Michele, scusa, adesso una curiosità, ma secondo te, ma dove lo trovavano tutto questo tempo per fare rivoluzionari di professione, essere esperti di tattica militare, teorici della rivoluzione, filosofi e addirittura appassionati di letteratura, perché tra l'altro Trotsky ha scritto anche dei testi, no, sulla storia della letteratura. Oggi sembra che noi non abbiamo il tempo neanche di fare, facciamo a scrivere due cose. Secondo me avevano molte babysitter, qualcuno che li cucinava, qualcuno che sparecchiava e lavava i piatti, perché altrimenti sicuramente non ci stavano dentro, come si direbbe a Bologna. Ma se ti dovessi chiedere alcuni libri da consigliare per chi appunto vuole addormentarsi serenamente, diciamo ricordando la rivoluzione sovietica, cosa gli consigliamo? Ma oggi abbiamo parlato un po' delle premesse storiche della rivoluzione bolscevica, e quindi ci vuole qualche buon libro della buonanotte per fare bei sogni. Forse il primo è sul 1905 di Lev Trotsky, un testo importante, anche se non esattamente di facile reperibilità. Il secondo è Il che fare di Lenin, che spiega la divisione fra menscevichi e bolscevichi, la nascita del movimento rivoluzionario comunista. Il terzo libro, un libro di storia, anche qui di Trotsky, il primo volume della storia della rivoluzione russa. L'ultimo, un testo letterario abbastanza famoso, che però ripercorre un ambito storico molto largo e scritto benissimo, che è Memorie di un rivoluzionario di Victor Serge, che credo sia un personaggio bellissimo, oltre che un abile scrittore, ma sia un po', come si può dire, un rivoluzionario totale, che passò dall'anarchismo al bolscevismo, poi al trotskismo, per poi ritornare su posizioni libertarie nell'ultima parte della sua vita. Molto attuale, e tra l'altro a cui Stefano Tassinari era molto molto legato. Bene, allora chiudiamo qui, finito qui, no? No, abbiamo raccontato tutto. Non abbiamo ancora preso il potere, non si può dire. Sempre avanti, dai. Vabbè, quindi continua per fortuna. Manca la rivoluzione di febbraio, lo zar che se ne va, la presa del palazzo d'inverno, la fucilazione dello zar, poi comincia qualcos'altro. Avremo comunque altri ospiti. Il coro dell'Armata Rossa. Ah, il coro dell'Armata Rossa. Toto Cutugno, che è andato al coro dell'Armata Rossa, no? Sì, te ti sei già vuotato le cantine del palazzo d'inverno a quest'ora. Bene, dai, allora continuiamo alla prossima. Saluti a tutti. Ciao. E buona rivoluzione. Buon 7 novembre.